studio non registrato per non creare problemi. Le parole del nostro linguaggio sono un mezzo di comunicazione molto importante perché determinano la comprensione di quello che si vuole dire. Se io dico casa anziché catapecchia, chi mi ascolta comprende subito che mi sto riferendo ad un luogo bello e confortevole anziché ad una casupola di brutto aspetto e mezza rovinata. Perciò, per forza di cose, ogni termine del linguaggio umano ha il suo specifico significato, altrimenti non sarebbe possibile intendersi. In merito al matrimonio, cioè quella istituzione giuridica che permette ad un uomo e una donna di vivere sotto allo stesso tetto per formare una famiglia, si possono usare tanti aggettivi, quali matrimonio riuscito, matrimonio stabile, matrimonio difficile o matrimonio in crisi. Forse l'aggettivo più conosciuto associato al matrimonio è indissolubile, cioè non scioglibile, non divisibile. Essendo il matrimonio una istituzione creata da Dio, è più che mai opportuno considerare cosa pensi Dio in merito. Del matrimonio la parola di Dio parla spesso, soprattutto quando l'Eterno Dio diede per la prima volta delle leggi civili, religiose e cultuali al popolo di Israele. Dalle regole dettate dall'Eterno è possibile comprendere quale sia il suo pensiero in relazione al matrimonio tra un uomo e una donna. Nelle sante scritture non è contemplato il matrimonio tra due uomini o tra due donne, perché questo era una delle cose più disprezzate o ripugnate per Dio. Che il matrimonio sia scioglibile piuttosto che indissolubile è chiaramente esposto in tutta la scrittura. Basti pensare alle leggi sociali date in merito, che evidentemente erano superiori a quelle riguardanti il patto matrimoniale. Quando un padrone dava ad un suo schiavo una moglie, quest'ultimo, dopo 7 anni, poteva andarsene, ma senza la moglie e gli eventuali figli nati durante il matrimonio, Esodo 21, 1 a 4. Forse la legge più eclatante in merito è quella relativa ad una prigioniera, così diceva la legge di Dio. Quando andrai in guerra contro i tuoi nemici e l'Eterno, il tuo Dio, te li darà nelle mani, e tu li farai prigionieri. Se vedi tra i prigionieri una donna di bell'aspetto e ti piace tanto da volerla prendere per tua moglie, la condurrai a casa tua, ed ella si raderà il capo e si taglierà le unghie, si leverà la veste di prigioniera, abiterà in casa tua e farà cordoglio per suo padre e sua madre un mese intero. Poi entrerai da lei e sarai suo marito e lei tua moglie. Se in seguito non ti piace più, la lascerai andare dove vuole, ma non la potrai affatto vendere per denaro né trattarla da schiava, perché l'hai umiliata. 21.1014. Inoltre, che pensare di Dio che ordinò ad Abramo di mandare via la serva con la quale aveva avuto il figlio, Ismaele, suo primogenito? Non era Abramo il padre della fede poligamo? Non aveva ripudiato la serva per ordine di Dio? Questi episodi e l'ordine di Gesù urlano ai quattro venti che il matrimonio non è per nulla indissolubile. Rimane sicuramente un patto per tutta la vita, ma, comunque, sotto la stretta osservanza della dissolubilità della parola data in merito dall'Eterno. Non ammetterlo significa portare all'estremo una verità. Però occorre anche riconoscere che la parola di Dio considera due casi nei quali il matrimonio è indissolubile, cioè che marito e moglie non possono più separarsi. E dato che le leggi dell'Eterno nell'antico patto favorivano gli uomini, è più giusto sostenere che la legge di Dio prevedeva due casi nei quali l'uomo non poteva mai più mandare via la moglie, cioè ripudiarla. Questi due casi mettono ancora una volta in evidenza che il matrimonio nell'antico patto non era ritenuto indissolubile, diversamente è abbastanza ovvio che l'Eterno Dio non avrebbe esposto due possibilità nelle quali il marito non poteva più ripudiare la moglie. Vediamo il primo caso descritto nel libro del Deuteronomio, al capitolo 22. Se un uomo sposa una donna, entra da lei e poi la prende in odio e l'accusa di cose vergognose e le fa una cattiva reputazione, dicendo: Ho preso questa donna, ma quando mi sono accostato a lei non ho trovato in lei i segni della verginità. Il padre e la madre della giovane prenderanno i segni della verginità della giovane e li mostreranno agli anziani della città, alla porta. E il padre della giovane dirà agli anziani: «L'ho dato mia figlia in moglie a quest'uomo, ma egli l'ha presa in odio, ed ora l'accusa di cose vergognose dicendo: «Non ho trovato in tua figlia segni della verginità, ma questi sono i...» E spiegheranno il lenzuolo davanti agli anziani della città. Allora gli anziani di quella città prenderanno il marito e lo puniranno con battiture. E poiché ha sparso una cattiva reputazione su una vergine di Israele, gli imporranno un'ammenda di 100 sicli d'argento, che daranno al padre della giovane. Così essa rimarrà sua moglie ed egli non potrà mandarla via finché vive. Ma se la cosa è vera e nella giovane non sono stati trovati i segni della verginità, allora faranno uscire la giovane all'ingresso della casa di suo padre e la gente della sua città la lapiderà con pietre, ed essa morirà, perché ha commesso un atto infame in Israele, facendo la prostituta in casa di suo padre. Così estirperai il male di mezzo a te. DT 22.1-321. È difficile per noi comprendere come le cose andassero esattamente, perché era facile presentare un lenzuolo macchiato di sangue appartenente a chiunque. Ma di fatto sta che una volta offesa la moglie con l'accusa assolutamente falsa di mancata verginità, la donna non poteva mai più essere ripudiata. Da un certo punto di vista una tale accusa da parte del marito era auspicabile affinché la donna potesse assicurarsi per sempre un tetto e un marito. Ma l'uomo aveva tutto l'interesse a non sbagliare, perché così aveva la possibilità e la libertà di ripudiare la moglie. Un discorso che oggi potrebbe essere ritenuto malvagio, ma riuscendo a calarsi nella mentalità sociale di allora e tenendo conto che per un uomo il massimo bene era avere una discendenza e quindi degli eredi, valutata l'eventualità che la donna presa in moglie avrebbe anche potuto essere sterile e, soprattutto nel caso di un uomo impossibilitato a mantenere altre donne, è comprensibile che a un maschio fosse data la possibilità di rimandare via la moglie. Il secondo caso nel quale la legge prevedeva un matrimonio indissolubile lo troviamo sempre nello stesso capitolo del Deuteronomio. Se un uomo trova una fanciulla vergine che non sia fidanzata, la prende e si corica con lei, e sono sorpresi in flagrante, l'uomo che si è coricato con lei darà al padre della fanciulla 50 sicli d'argento, ed ella sarà sua moglie, perché l'ha disonorata e non potrà mandarla via finché egli vive. DT 22.2830. Anche in questo caso il matrimonio è indissolubile per delle questioni sessuali, e cioè se un giovane aveva rapporti sessuali prima del matrimonio, ovviamente, con una ragazza non già fidanzata a un altro, dato che il fidanzamento era ritenuto un matrimonio in atto. Questo aspetto della legge favoriva in qualche modo quei giovani innamorati che, per il pericolo di non potersi sposare, consumavano il matrimonio. Una volta avvenuto il fattaccio, come si dice, l'unica soluzione era di sposarsi regolarmente, coronando così il sogno d'amore. Considerati nel suo insieme, i due casi di matrimonio indissolubile sono molto umani e carini, perché se si trattava di una calunnia ingiusta nei confronti della donna, la legge la proteggeva da un maschilismo vile, mentre due giovani che, per un atto di debolezza, avevano rapporti sessuali prima del matrimonio non erano messi a morte. Perché Dio, sapendo come siamo fatti, riteneva la loro sessualità incontrollata una debolezza giovanile comprensibile. Mentre per gli adulteri non vi erano scuse e dovevano morire, per due giovani vi era grande comprensione, non approvazione, ma neppure sentenze estreme. Nell'esaminare i due soli casi nei quali il matrimonio è indissolubile, vale la pena tenere presente il caso nel quale il marito non può riprendere la moglie da lui precedentemente mandata via. Lo troviamo ancora nel libro del Deuteronomio. Quando uno prende una donna e la sposa, se poi avviene che essa non gli è più gradita perché ha trovato in lei qualcosa di vergognoso, scriva per lei un libello di ripudio, glielo dia in mano e la mandi via da casa sua. Se ella esce da casa sua e va e diviene moglie di un altro uomo, se quest'ultimo marito la prende in odio, scrive per lei un libello di ripudio, glielo dà in mano e la manda via da casa sua. O se quest'ultimo marito che l'aveva presa in moglie viene a morire, il primo marito che l'aveva mandata via non potrà riprenderla in moglie, dopo che è stata contaminata, perché questo è un abominio agli occhi dell'Eterno, e tu non macchierai di peccato il paese che l'Eterno, DT 24, 1 a 4. questo ordinamento giuridico è stato visto quasi esclusivamente come il permesso dato all'uomo di ripudiare la moglie, ma anche da una lettura superficiale risulta evidente che lo scopo della legge fosse impedire una nuova unione con la moglie già ripudiata in precedenza. Questo aspetto della legge dovrebbe essere preso sul serio anche oggi, perché con troppa facilità ci si sposa, si divorzia e ci si risposa con il primo coniuge. Il fatto che un tale atto sia spregevole davanti a Dio dovrebbe essere tenuto in conto anche da chi non è sotto la legge giudaica. Tali norme possono anche non essere più valide, il loro principio morale però non è stato annullato da Gesù. Diversamente, in merito al divorzio o problematiche inerenti al matrimonio, non ci si dovrebbe mai rifare all'antico patto. Così, chi si separa o divorzia deve farlo tenendo presente che non potrà più ritornare con il coniuge precedente. Ancora una volta, il matrimonio deve essere ritenuto una cosa molto seria e un legame che dura per tutta la vita. Maggio 2008. Ellero.